Nel 1920, nel periodico L'Archivio Storico Italiano, viene recensito un libro su Camilla Faa, un'aristocratica vissuta alla corte dei Gonzaga di Mantova nei primi anni del Seicento e autrice di un testo di memorie. Il libro, apparso 2 anni prima, è accolto molto positivamente come il primo studio esaustivo su questa donna. Il soggetto è piuttosto conosciuto soprattutto in letteratura. Di Camilla Faa si trova notizia nelle cronache e storie mantovane e molto brevemente in alcune opere di storia generale. La sua vita viene particolarmente narrata in maniera particolarmente ampia in una serie di testi letterari, tra cui 2 racconti, un romanzo, un dramma storico e un componimento poetico. Questi per ora sono i testi che si conoscono, i testi letterari su questo soggetto. La sua fama è legata alle questioni di successione dinastica nel Ducato di Mantova, a causa del matrimonio segreto con il Duca Ferdinando Gonzaga. Al contrario, l'autrice del libro, Fernanda Sorbelli Bonfà, non è molto nota. Per ora di lei conosciamo solo alcuni saggi di letteratura e di storia locale bolognese, oltre all'opera su Camilla Faa. Quindi, quest'opera di cui io parlerò oggi costituisce forse il prodotto più completo della sua attività di storica ed è l'unica opera per cui viene ricordata nei cataloghi bibliografici nazionali, fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Il mio intervento è volto ad un primo esame dell'opera di questa storica. Ho dedicato un'attenzione particolare al libro su Camilla Faa, anche in relazione alle precedenti rielaborazioni di questa vicenda, sia letterarie sia a carattere storico. Vorrei dire che la mia è una ricerca a una fase molto iniziale e io ho una visione molto parziale quindi su questa storica, non solo sulla sua biografia, ma anche sulla sua produzione, nel senso che non ho avuto ancora la possibilità di leggere tutti gli articoli che lei ha scritto, che sono in totale 9. L'attività di storica della Sorbelli Bonfà si intreccia a quella di insegnante. Di lei sappiamo che è laureata all'Università di Bologna in Lettere e Filosofia e che insegna in un istituto superiore magistrale della città. Ha un incarico di ruolo, inizialmente come insegnante di italiano e di lingua e letteratura latina, che poi diventa di storia e latino. La sua presenza all'interno dell'istituto comprende per un certo periodo anche la funzione di bibliotecaria della biblioteca dei professori, che è separata da quella degli studenti. E secondo quello che viene riportato sull'annuario dell'istituto, lei si occupa durante il periodo in cui è bibliotecaria di una serie di acquisizioni che sono sia di classici sia di testi di storia, soprattutto di storia dell'Ottocento. Senza dubbio l'appartenenza a questa istituzione viene utilizzata dalla Sorbelli Bonfà per la pubblicazione di studi e ricerche in campo storico e letterario. Almeno 2 dei suoi articoli sono pubblicati sull'annuario dell'istituto. L'annuario dell'istituto è un volume che esce chiaramente ogni anno, che oltre a contenere notizie inerenti al funzionamento e alle iniziative interne, funziona come luogo di promozione del lavoro intellettuale dei singoli docenti e quasi ogni volume ha una parte iniziale dove trovano spazio articoli di tipo giornalistico, ma anche articoli più specialistici, tipo articoli di storia, filosofia, letteratura, scienza a volte, scritti tutti dai professori che lavorano, che insegnano in questa scuola. Contemporaneamente alla Sorbelli, negli anni compresi fra il 1924 e il 1935, che corrispondono al periodo, l'undicennio per il quale io ho consultato gli annuari dell'istituto, all'interno della scuola si muovono altre donne insegnanti, autrici di opere di storia e di biografie. Una collega, ad esempio, pubblica una biografia di Laura Bassi, è una biografia che esce nel 1913. Laura Bassi è una dotta bolognese vissuta nel Settecento a cui è intitolata la scuola magistrale dove tutte lavorano. E un'altra docente di storia scrive anch'essa una serie di articoli sull'annuario e pubblica alcuni volumi dedicati alla storia e storia dell'arte di Bologna. Quest'ultima, tra l'altro, è coautrice di un articolo insieme alla Sorbelli, un articolo che è un articolo di tipo celebrativo su le due donne a cui sono intitolati due istituti magistrali di Bologna, quindi ancora Laura Bassi e Anna Morandi Manzolini, che è un'altra dotta bolognese del Settecento, nel momento in cui le scuole vengono unite. L'attività di studio e ricerca della Sorbelli, quindi quello che mi sembra importante, che non so se sia un caso o se sia la norma, perché io non ho mai studiato la scuola in questi primi anni del Novecento in generale, non mi sono mai occupata di studiare la scuola si caratterizza come un gruppo intellettualmente abbastanza attivo, dove lavorano delle storiche contemporaneamente, alcune anche insieme, tutte storiche pochissimo note. L'attività di studio e ricerca della Sorbelli Bonfà va considerata alla luce non solo dell'ambiente scolastico a cui appartiene, ma anche di quello familiare a cui accede con il matrimonio. Il marito, Albano Sorbelli, è direttore della Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna e per un periodo docente di bibliografia e biblioteconomia presso l'università. È noto come storico, soprattutto come storico di Bologna per il periodo medievale moderno e in particolare per aver curato l'edizione di cataloghi di fonti manoscritte bolognesi. Che ruolo giochi esattamente la famiglia, in particolare il marito, nell'attività intellettuale di questa storica è un po' ancora difficile dirlo. Senza dubbio, tra lei e il marito vi sono alcune chiare convergenze di interessi e di ricerca. Sono convergenze anche relative al tipo di documenti a cui entrambi ricorrono. Ad esempio, fonti a stampa del XVI secolo, che sono citate in un articolo dalla Sorbelli Bonfà, sono state edite dal marito, e lei cita proprio l'edizione del 1915 del marito, cioè a cura del marito. E, con ogni probabilità, il marito svolge un ruolo utile per la pubblicazione di alcuni suoi scritti. È infatti sulla rivista fondata da Sorbelli, che è la rivista L'Archiginnasio, che prende il nome dalla biblioteca di cui lui è direttore, è fondata mi sembra nel 1906, che lei pubblica uno dei suoi articoli. Inoltre il libro su Camilla Fa viene edito dalla stessa casa editrice, che è una casa editrice di Bologna, la Zanichelli, abbastanza grossa, presso la quale il marito pubblica una serie di cose, una serie di sue opere. E non a caso forse la rappresentazione che lei propone della sua casa familiare, cioè quella di lei, il marito e i due figli, è quella di una casa piena di libri. E questo lo impariamo da un testo a carattere strettamente personale, che è l'elogio funebre composto in memoria del figlio morto nella guerra d'Africa nel 1937. Nella cerchia familiare, infine, la Sorbelli Bonfà non è l'unica donna a scrivere di storia. Rita Sorbelli, che viene presentata sempre in questo articolo, in questo elogio funebre, come la cognata, però, anzi viene presentata come zia Rita, quindi io suppongo che sia la cognata, però non vi è la certezza, bisognerebbe chiaramente confrontare sui documenti. Rita Sorbelli scrive due brevi saggi di storia locale e in collaborazione con Albano Sorbelli lavora alla redazione di un manuale di storia in tre volumi per le scuole complementari, che viene pubblicato solo 3 anni prima l'opera su Camilla Fa. Quindi di nuovo una contemporaneità non solo fra lei e alcune insegnanti, ma anche fra lei e alcune donne della sua famiglia verso la scrittura della storia, cioè per quello che riguarda la scrittura della storia. A mio avviso sembra esservi una stretta corrispondenza tra le materie letterarie e storiche da lei insegnate e i suoi interessi di studio e ricerca. La sua produzione alterna infatti titoli di storia e di letteratura. Parte dei suoi saggi sono dedicati ad autori rinascimentali e classici. A questi si aggiungono contributi su figure ben note nella storia di Bologna e alcuni scritti sulla storia di Mantova. Questi ultimi sono, gli scritti sulla storia di Mantova, sono pubblicati nel periodo precedente al lavoro su Camilla Fa, da cui si vede come l'interesse verso la storia e le fonti mantovane risalga, che sono chiaramente centrali nell'opera su Camilla Fa, viene maturato già all'inizio della sua attività di ricerca e di scrittura. Pubblicato nel 1918, Il libro su Camilla Fa propone la ricostruzione della vita di questa donna appartenente a una nobile famiglia del Monferrato, da quando giunge a Mantova come dama di corte fino alla morte. Nel racconto sono ripercorsi alcuni eventi fondamentali della sua esistenza: il matrimonio con il duca, la nascita di un figlio, lo scioglimento del matrimonio e l'entrata in monastero. In monastero lei trascorre tutto il resto della sua vita ed è proprio in monastero che, su richiesta della badessa, sembra, da come lei dice, le viene chiesto di scrivere le sue memorie, la sua versione di questa storia. E in appendice al libro su Camilla Fa vengono appunto pubblicate, ripubblicate per la seconda volta, le memorie. L'autrice è consapevole di proporre con la sua opera una ricostruzione inedita della storia di Camilla Fa, della quale a suo avviso si è sempre avuto una conoscenza parziale. Lei invece offre la possibilità a chi legge di andare oltre la storia tradizionale e di conoscerne il retroscena, ossia le strategie e i ruoli giocati da Camilla e dagli altri uomini e donne coinvolti nella vicenda. È perciò, secondo lei, che la sua opera può destare interesse. Così scrive nella nota introduttiva, cito: «Ho potuto vedere che le sue memorie», si riferisce chiaramente alle memorie della Fa, «sono manchevoli, inesatte, reticenti e che la storia della sua vita risulta assai più compiuta e lagrimevole, veduta e per così dire vissuta con lei sui documenti, che non nella narrazione sua ed altri e nelle fantasie degli artisti. E per questo Camilla Fa torna ancora per poco tra noi, a narrarci la sua storia che, non nell'insieme ma nei particolari, è diversa dalla tradizionale». A questo proposito afferma anche di volere porre la figura della protagonista, cito, nella sua giusta luce e narrare le sue vicende lasciando parlare lei stessa e lasciando parlare anche gli uomini che nella sua sventura ebbero parte o la conobbero. Il testo ha effettivamente una funzione innovativa rispetto alle narrazioni precedenti e anche alle memorie di Camilla Fa, soprattutto da un punto di vista di informazioni. Tra l'altro nel testo è lasciato largo spazio alla citazione di documenti che sono ampiamente trascritti, soprattutto nell'apparato delle note. Chi legge viene così a contatto diretto sia con le fonti originali, sia con moltissime informazioni, magari non fondamentali all'economia del racconto, ma che comunque contribuiscono ad offrire una larga e particolarizzata rappresentazione della storia. Si vengono ad esempio a sapere le disposizioni testamentarie del duca a favore di Camilla, si viene a conoscenza di un memoriale indirizzato da Camilla al Papa prima di entrare in monastero, in cui lei elenca alcune condizioni per poter mantenere parte dei suoi beni anche da monaca. Dunque, se la ricostruzione della storia risulta descrittiva e non molto analitica, un po' a problematica potremmo anche dire, il potenziale informativo del testo è comunque alto. Per capire bene l'importanza dell'opera di questa autrice mi sembra interessante confrontarla con un articolo su Camilla Fa di uno storico, Giuseppe Giorcelli, apparso nel 1895. È un articolo che appare in una rivista di storia e storia dell'arte locale, la rivista di storia e archeologia per la provincia di Alessandria. Si tratta dell'articolo in cui sono pubblicate per la prima volta le memorie di Camilla Fa. I due saggi, il saggio della Sorbelli e questo di Giorcelli, hanno alla base progetti molto diversi, non solo uno è un libro, l'altro un articolo, ma hanno alla base una ricerca completamente diversa. L'articolo di Giorcelli consiste in uno scritto breve in cui lo scopo principale è fornire una contestualizzazione storica al testo, dando alcune informazioni sulla vita della donna e sul contesto politico soprattutto, che non sono riportate nelle memorie. Poche sono le notizie nuove che vengono fornite e la figura di Camilla Fa, tratteggiata dall'autore, è quasi inesistente. Se vogliamo, anche nei titoli scelti dai due storici, è chiara la diversa natura dei rispettivi saggi. Camilla Gonzaga fa Storia documentata, è il titolo scelto dalla Sorbelli. Documenti storici del Monferrato, a cui si aggiunge l'appendice, che sono le memorie di Camilla Fa, è invece quello scelto da Giorcelli. Traspare un evidente interesse da parte di quest'ultimo, quasi più per il contesto piemontese che non per il testo e la vita di Camilla Fa. E in effetti, se guardiamo che cosa ha pubblicato questo storico, ha pubblicato una serie di articoli di storia del Monferrato. Il Monferrato è una zona del Piemonte, da cui si vede che lui è probabilmente ha incontrato questo testo per caso durante le sue ricerche, ne è stato interessato e ha deciso di pubblicarlo, ma per il resto lui si occupa solo di questo. Ciò che emerge da questo confronto, a mio parere, non è solo l'effettiva utilità e novità della ricerca della Sorbelli, ma è anche una più profonda valorizzazione delle memorie come testo e soprattutto come testo letterario. Da un lato abbiamo una minuziosa ricostruzione della storia in cui trovano spazio i punti di vista dei vari redattori e redattrici delle lettere. Dall'altro abbiamo il completamento della storia, ossia la versione fornita dalla diretta interessata. Anche se ovviamente le memorie, lei dice apertamente che sono un testo mirato a difendere l'onore di chi le scrive, quindi lei non le tratta come testo, non le tratta come testo storico, diciamo. Mentre quello che accade nel contributo dato da Giorcelli, nel breve articolo di Giorcelli, è che le memorie non vengono molto valorizzate, in quanto queste 20 pagine che precedono il testo sono per la maggior parte pagine su un contesto piemontese, quindi non c'è questo stretto legame e questa ricostruzione del contesto mantovano all'interno del quale vengono scritte le memorie, ma sono come due cose lievemente staccate. L'interesse della Sorbelli Bonfà verso la figura della protagonista del suo libro va visto, a mio avviso, alla luce del suo doppio coinvolgimento nella ricerca storica da un lato e nello studio della letteratura dall'altro. Scrivere su Camilla Fa le offre la possibilità di misurarsi con un'autrice e con un testo piuttosto originale, poiché le memorie costituiscono uno dei pochi esempi italiani che si conoscono di scrittura femminile di questo genere. Le consente inoltre di misurare il suo lavoro con la tradizione storiografica e soprattutto con quella letteraria che la precedono. È nell'ultimo capitolo del libro, intitolato Ferdinando e Camilla nella storia e nell'arte, che il confronto viene reso esplicito e che vengono discusse le diverse interpretazioni della figura di Camilla Fa date da storici e letterati, dai quali lei si distacca. Sugli storici non si sofferma molto. Come ci si può aspettare, in due delle opere da lei citate, che sono le due opere che io ho controllato perché le altre sono cronache manoscritte e quindi stanno a Mantova, sono due opere entrambe a carattere politico, la storia di Camilla Fa è ridotta a poche righe. Nella seicentesca narrazione della guerra del Ducato del Monferrato, composta da Antonio Possevino, troviamo quattro veloci riferimenti alla vita della donna in relazione al problema della successione dinastica nel Ducato di Mantova. In maniera analoga, in una delle grandi opere sulla storia italiana del Settecento, Gli Annali d'Italia di Lodovico Muratori, Camilla Fa è solo un incidente dinastico, sempre a causa appunto del suo matrimonio con il Duca. Posso leggere qui il piccolo pezzo con cui Muratori fa riferimento a questa storia di Camilla Fa nel nell'undicesimo volume degli Annali. Dice: erasi incapricciato Ferdinando Gonzaga di Camilla Erdizzina Casalasca ed era giunto a sposarla. Se ne svaghì egli di poi, secondo il costume di chi fa simili salti, e furono trovate ragioni per far dichiarare legittimo e nullo quel matrimonio. Ciò fatto, cercò ed ottenne in moglie Caterina de' Medici, sorella di Cosimo II, Granduca di Toscana. È soprattutto la tradizione letteraria ottocentesca a cui l'autrice fa riferimento per discutere delle diverse interpretazioni di Camilla Fa proposte in precedenza. Sono infatti i testi letterari che hanno restituito per primi piena luce alla vicenda, per primi non in senso che sono stati primi a parlare di Camilla Fa, che però per primi hanno dato una narrazione a tutto tondo della sua vita. L'autrice ne prende in considerazione tre. Tutti e tre sono a carattere storico. Il racconto e il romanzo si servono di documenti e di manoscritti che citano con precisione. Il romanzo, in particolare, di Giovan Battista Intra, include alcune lettere di Camilla Fa trascritte ed inserite nella narrazione. Entrambi i testi attingono abbondantemente alle memorie, a cui rimangono piuttosto fedeli. Le memorie vengono citate in questi testi. In questo caso la scelta della Sorbelli Bonfà cade su due autori che si dedicano tanto alla letteratura quanto alla storia e storia dell'arte di Mantova. E se si guarda che cosa hanno scritto questi due, hanno scritto sia romanzi o racconti storici, sia articoli sulla storia e storia locale, soprattutto storia dell'arte mantovana. Il terzo testo invece è un dramma storico rappresentato per la prima volta a Firenze nel 1846. Proviene da uno sperimentato autore di opere teatrali, Paolo Giacometti, che scrive solo drammi, tragedie e commedie storiche. Questo lavoro è quello che più si distacca dalla storia, a cui più o meno gli altri due si riconducono con piccole variazioni. È l'unico testo fra i tre che cambia il finale della storia di Camilla Fa. Camilla Fa non è obbligata a separarsi dal figlio, comunque fortemente spinta, diciamo, a entrare in convento, ma per il dramma storico Camilla Fa sceglie deliberatamente di entrare in convento perché ritiene che sia comunque una fine migliore che non aspettare di essere abbandonata dall'uomo che ha sposato segretamente. Ora, a storici e cronisti, l'autrice critica l'incapacità di creare una figura storicamente attendibile per due motivi. I contemporanei, secondo lei, hanno confuso la vicenda di Camilla Fa con il sentimento di pietà dato dalla partecipazione alla sua storia come testimoni oculari. E invece gli storici più tardi si sono troppo limitati all'uso di una sola fonte, le memorie. Nonostante lei ritenga che le memorie siano commoventi e suggestive nella loro semplice umiltà, queste sono le parole che impiega, sono però una fonte non attendibile in quanto non concordano con i documenti. Secondo lei, le memorie sono poco utili sia per la ricostruzione dei fatti, sia per conoscere la personalità di chi le ha scritte. Come precisa, sono un testo privo. Coinvolta nella storia, né per conoscere il suo carattere, perché si è autorappresentata in maniera troppo diversa dalla realtà, troppo virtuosa. Ai testi letterari verso i quali esprime interesse e apprezzamento, l'autrice attribuisce un limite quasi analogo a quelli storici, aver proposto un'immagine non reale della protagonista. Questa è una critica che indirizza tutte e tre le opere che considera. A suo parere hanno contribuito alla creazione di una figura troppo virtuosa, troppo fiera, creando un'immagine che lei definisce più grande del vero, meno umana, storicamente falsa. Un solo autore, secondo lei, propone una figura più simile al vero, sono sempre le sue parole, e si tratta, guarda caso, dell'autore del romanzo storico che ha utilizzato più degli altri i documenti. Qual è la figura femminile che lei rimprovera a questi autori e che non vuole riprodurre? Ciò da cui si distacca è l'immagine di Camilla come donna dotata di forza e virtù. Se leggiamo alcuni dei testi che cita, vediamo come in questo caso la rappresentazione che questi testi danno di Camilla Fa si avvicina alla tipica immagine della donna forte. Ad esempio, lo storico seicentesco Possevino sottolinea come Camilla, nel suo rifiuto di accettare una relazione con il duca senza che sia ufficializzata da un matrimonio, mostri una costanza virile. Quest'immagine evidentemente permane a lungo, quest'immagine forte di Camilla, poiché sulla stessa linea di Possevino, ma a distanza di oltre due secoli, anche Giorcelli afferma che, cito, sotto angeliche sembianze la fa possedeva un animo virile e un carattere di ferro. E anche nelle versioni date nei testi letterari, Camilla Fa spesso appare come una donna forte, cioè la parola forte, l'attributo della forza viene attribuito alla sua immagine. Di fronte all'immagine femminile creata dalla storiografia, da una certa storiografia almeno, e da alcuni testi di letteratura, la Sorbelli ne suggerisce una diversa, che lei presenta come più tragica, più umana e quindi più cara ai lettori. Il ritratto di Camilla da lei creato risulta in effetti più complesso, nel senso che da un lato ripropone il modello della donna forte, della donna dotata di intelligenza e di una volontà, cito le sue parole, retta e ferrea. Dall'altro, il personaggio di Camilla è modellato sull'idea della debolezza e della sofferenza. Ed è proprio quest'ultimo aspetto di debolezza e passività che lei preferisce evidenziare. In definitiva, quindi, la Camilla Fa proposta dall'autrice è anche e soprattutto una vittima, così viene definita. Partendo da questa discussione sulle diverse interpretazioni del personaggio di Camilla Fa, vorrei soffermarmi sulla concezione della storia che emerge negli scritti della Sorbelli, sebbene in maniera sporadica. Quello che la Sorbelli Bonfà afferma nel suo libro è che la storia va scritta partendo dai documenti. Implicitamente, però, vi è l'idea che la storia possa essere confrontata con la letteratura. Nella discussione attorno al personaggio di Camilla Fa, la critica alle interpretazioni letterarie viene avanzata solo in quanto contraddicono in documenti, non in quanto rappresentazioni letterarie di per sé. Lei accetta il confronto, anzi. In altri articoli ritorna più di una volta l'idea che dalla letteratura possa venire un importante contributo per una piena comprensione del passato. Basta pensare ad esempio ad un articolo da lei pubblicato sull'annuario dell'istituto dove insegna, 9 anni dopo lo studio su Camilla Fa. Dedicato alla figura del poeta vissuto alla corte dei Bentivoglio di Bologna nel XVI secolo, Sabadino degli Arienti, l'articolo mira a dimostrare come l'opera letteraria possa avere quello che lei chiama un valore storico. Secondo lei, l'opera del poeta, una raccolta di novelle, è forse una delle opere più famose di questo poeta, è in grado di offrire una rappresentazione della storia di Bologna, di luoghi e di persone che trova conferma nelle cronache del tempo. Questo anche se l'autore si limita a descrivere il fatto storico senza interpretarlo. Tutto l'articolo è rivolto ad una lettura parallela delle novelle e di una delle più note cronache bolognesi, scritta da un contemporaneo del poeta, Cherubino Ghirardacci. Così scrive riferendosi al poeta. Per temperamento egli non approfondisce. Del fatto storico non coglie la portata, l'importanza, la grande linea, insomma, ma il particolare pittorico, il fatterello, il pettegolezzo piuttosto, e in questo si rivela l'informatore. E conclude affermando: poche opere sono, come questa, preziose per farci rivivere nel passato con tutta l'illusione della realtà. E invero, dietro quegli aneddoti spiccioli, quelle facezie spesso grossolane, quei fiacchi racconti tradizionali, si profilano i contorni della Bologna del 400, se ne vedono le costumanze, i personaggi più noti, si intravede anche la storia d'Italia in quello che ebbe di più triste e più grande. Per lei, dunque, figure storicamente esistite e figure romanzesche possono entrambe essere rappresentative di un periodo storico, ed è per questo che personaggi letterari e storici possono benissimo essere accostati. In un altro articolo, una breve recensione ad un volume su 4 bolognesi illustri scritto da un suo contemporaneo, commentando la contraddittorietà della vita italiana del Seicento e la corruzione della società dell'epoca, gli esempi menzionati sono i personaggi di un romanzo storico, esempi menzionati appunto rispetto al Seicento, e per la precisione sono i protagonisti dei Promessi Sposi, che è uno dei più celebri romanzi storici italiani. e cita Don Abbondio, Don Rodrigo, Zecca Garbuglio, che sono appunto i personaggi di questo romanzo. L'idea di uno stretto e positivo legame tra storia e letteratura coinvolge certamente anche una questione di forma e di stile. La composizione di un'opera storica, secondo ciò che afferma, deve basarsi su una solida ricerca che porti nuove conoscenze sull'argomento, ma deve comprendere una narrazione piacevole per chi legge. Per citare le sue parole, un'opera deve essere elegante e di finissima arguzia. E un libro di storia che lei recensisce ed accoglie positivamente è da lei definito un libro di diletto, un libro in cui, cito, il lungo lavorio di indagine si intuisce, ma non è importunamente additato in ogni riga. Va notato che l'autrice stessa si presenta come una grande lettrice di letteratura. Sempre nell'elogio funebre in memoria del figlio, che è costruito come un racconto in cui lei ripercorre, rivolgendosi direttamente al figlio, la loro vita insieme, dalla nascita di lui fino alla morte, lei si presenta come una madre che non ha, cito, né fantasia né simpatia per le fiabe, preferendo invece narrazioni a lei più familiari e più gradite. Queste narrazioni di cui è appassionata sono opere di letteratura medievale e poemi cavallereschi, opere che lei cita, e cita l'Orlando Furioso, Rabelais, per esempio. Vorrei fare due osservazioni conclusive. Vorrei ritornare alla recensione del libro su Camilla Fa, apparsa sull'Archivio Storico Italiano. Come ho detto, la critica è estremamente positiva. L'autore ritiene che la Sorbelli abbia colmato una lacuna esistente, proponendo la trattazione storica di un soggetto fino allora dominato solo dalla letteratura. Viene lodata la ricerca, condotta sui documenti con grande cura, ricerca che ha consentito di conoscere particolari della storia sconosciuti. All'autrice, inoltre, attribuisce una grande chiarezza stilistica. Due sole sono le critiche negative. La prima è quella di essersi limitata allo studio del contesto locale e di documenti mantovani, quando in realtà è nota l'esistenza di documenti conservati altrove, ad esempio presso gli archivi di Firenze. Secondo sempre il recensore, l'autrice ha inoltre ignorato una serie di opere recenti, come due studi sui Medici, che attingono ad archivi italiani e specialmente fiorentini. Il punto di vista ristretto, in breve, viene visto come la causa di alcune ingenuità di interpretazione. Bisogna dire che questa critica, diciamo, è vera, perché lei utilizza essenzialmente solo documenti mantovani, e le uniche cose che cita, diciamo, non strettamente mantovane, come il memoriale indirizzato al Papa, non perché lei si è recata a Roma, ma perché ne trova una copia nell'archivio storico Gonzaga. La seconda critica all'opera riguarda invece l'interpretazione della storia data dall'autrice, poiché a suo parere, cito, il lato romantico dell'avventura ha influenzato un poco l'animo della scrittrice, facendole apparire la sua eroina in una luce eccessivamente ideale, come una vittima assolutamente ignara, in balia alle malevolenze delle corti di Mantova e di Firenze, senza appoggi e senza difesa. Al contrario, ciò che viene messo in luce dall'autore della recensione è l'estrema consapevolezza di Camilla Fa della sua posizione nella vicenda, la sua ambizione, il desiderio di accedere a uno status sociale più alto nel diventare moglie di un duca, spalleggiata forse dalla famiglia. Aspetti e problemi questi che l'autrice non prende in considerazione. Queste critiche si ricollegano in qualche maniera a quelli che a mio avviso sono forse due dei tratti caratteristici di almeno una parte della produzione storiografica femminile italiana nel periodo che abbiamo considerato. Un primo veloce controllo su una delle più complete raccolte biobibliografiche di scrittrici italiane, l'opera curata da Maria Bandini Buti ed edita all'inizio degli anni 40, mostra come il contributo delle donne alla scrittura della storia spesso si concentri verso la storia locale, il romanzo, il racconto storico, la biografia storica. Sono dati che contraddistinguono anche molte delle opere scritte da storici di questo periodo, come per esempio i tre autori di romanzi, drammi o racconto storico su Camilla Fa, che scrivono storia e romanzo. Ma certo, per le donne questi due dati risultano particolarmente visibili e per numerose autrici quasi costanti. Senza dubbio, quindi, questi mi sembrano due punti importanti per una discussione sulla posizione delle donne nella storiografia rispetto al contesto italiano per i primi del Novecento. Una discussione che naturalmente si occupi da un lato di come le donne hanno pensato la ricerca e la scrittura della storia e dall'altro anche di come sono state recepite dalla critica e dal posto che è stato loro assegnato. In fondo anche il fatto che un'opera come la storia di Camilla Fa venga recensita sull'archivio storico italiano forse è segno di un tentativo o di un sì, di un tentativo di far uscire quest'opera da un circuito locale e metterla magari in un circuito più ampio, nazionale. Poi non lo so, qui bisognerebbe fare la ricerca anche per vedere se ci sono altre recensioni oppure che fine ha fatto la fama di questo libro, perché il fatto che l'autrice sia così poco nota e non ritorni, per esempio, nelle biografie, nelle raccolte biobibliografiche, né locali né nazionali, sembra proprio far pensare che sia molto poco conosciuta. La seconda osservazione, ecco, quindi anche pensare a come sono recensite le altre opere di storia locale o le altre opere scritte da altre storiche a metà fra storia e letteratura. La seconda osservazione riguarda il modello femminile da cui l'autrice si distacca nella sua versione di Camilla Fa. Questo punto solleva, a mio avviso, un problema interessante, che è quello del rapporto con le precedenti forme della rappresentazione dell'identità femminile e di come il modello della donna forte venga recepito dalle storiche del Novecento. Si tratta di un'immagine piuttosto diffusa nella tradizione letteraria e storiografica italiana e più in generale europea precedente al Novecento, forse anche precedente a gran parte dell'Ottocento. Come ha fatto notare Ian MacLean, quest'immagine, ad esempio, ritorna con frequenza nella trattatistica attraverso cui si esprime la polemica sul sesso femminile nel XVII secolo in Francia. Ed è inoltre un'immagine che ritorna, per esempio, nell'opera in una delle opere che sono opere che danno un contributo alla querelle des femmes in Italia, come è l'opera di Lucrezia Marinelli, della nobiltà e dell'eccellenza delle donne, in cui il modello della donna forte, che è un'opera edita per la prima volta nel 1600, in cui il modello della donna forte ritorna abbastanza spesso. Questo modello risulta inoltre diffuso nelle raccolte biografiche delle donne illustri ancora all'inizio dell'Ottocento. Non a caso, in una collezione di questo genere, dedicata alle scrittrici italiane e pubblicata da Ginevra Canonici Facchini nel 1824, che include Camilla Fa come autrice della memoria, descrive Camilla Fa come forte e bellissima donna. Senza dubbio, infine, la figura della donna forte si ritrova anche in alcune delle opere femminili che costituiscono parte del contributo portato dalle donne alla storiografia in area italiana. Ad esempio, ritorna in alcune delle vite delle sante scritte nella maggior parte da monache tra XV e XVII secolo. Mi sembra dunque che la volontà della Sorbelli di distaccarsi e criticare la figura della donna forte possa essere indagata in primo luogo come una scelta ideologica. Non voglio dire che con questo lei voglia prendere una posizione ideologica, mi sembra che però possa essere indagata anche in questo modo, ossia come una più ampia critica ad un preciso modello femminile usato in epoca precedente alla sua da quella che viene considerata la prima letteratura femminista. In secondo luogo, questa critica fatta dalla Sorbelli può essere considerata in maniera più generica, diciamo, un invito ad approfondire il problema di come le storiche del periodo da noi considerato, cioè da questa prima metà del Novecento, hanno conosciuto e giudicato la tradizione storiografica femminile precedente.